e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci tornati a Cuore Denari, vi auguriamo un dolce inizio di settimana, dolce ma non troppo però, e vi spiegheremo il perché nella pagina di Cuore, nella seconda parte della nostra trasmissione. L'occasione ce la serve su un piatto d'argento, niente meno che il Parlamento europeo che proprio alla fine della scorsa settimana ha posto un veto sul progetto di norme comunitarie che permetterebbero agli alimenti per i bambini di continuare a contenere quantità di zucchero fino a 3 volte superiori ai limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, l'invito è chiaro: qualche zolletta in meno oggi per garantire ai nostri figli una salute migliore domani. Allora, quanto è dolce la dieta dei vostri bambini e la vostra? Ne parleremo nel corso della trasmissione, ma non di solo zucchero vive l'uomo e non di solo zucchero parleremo oggi a Cuore Denari insieme al dottor Franco Berrino, con cui potete raccontare e chiarire tutti i vostri dubbi sulla composizione della vostra dieta e sugli effetti che alcuni alimenti che portiamo in tavola la possono avere sulla nostra salute. E per quanto riguarda i denari, invece, la settimana che inizia ne segue una che ha visto un vero e proprio ottovolante sui mercati finanziari. Nel vortice sono finiti, come sapete, i titoli bancari, e per parlare della fibrillazione della borsa abbiamo per qualche giorno spento, abbassato il riflettore su un tema al quale invece vogliamo continuare a dedicare per coerenza tutta l'attenzione necessaria. Dopo i numerosi speciali, lo ricorderete, che abbiamo fatto a dicembre, oggi Cuore Denari riapre il capitolo salva banche e riapriamo il capitolo sul famoso provvedimento del governo varato il 22 novembre, con il quale, come ricorderete, sono state oggetto di risoluzione 4 piccole banche italiane: Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti. Oggi vogliamo fare un punto sul lavoro di ristrutturazione di questi 4 istituti di credito. Ritorniamo sulla situazione degli azionisti ed obbligazionisti delle 4 banche che abbiamo imparato a definire risolte. Non lo facciamo con un ospite qualunque, ma con chi si è preso questa gatta da pelare. Quindi ringraziamo, abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina Roberto Nicastro, presidente delle 4 Good Bank. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori presenti. Oggi, se non mi sbaglio, lei è a Ferrara, tra l'altro. Sì, abbiamo un consiglio di amministrazione della banca e usiamo in genere queste occasioni anche per dialogare con i colleghi piuttosto che con gli interlocutori sul territorio. Abbiamo molte domande da farle, dottor Nicastro, lo abbiamo con noi peraltro fino alle 11 e quindi cercheremo anche, se possibile, di girare a lei alcune domande dei nostri ascoltatori che possono intervenire all'800 24 00 24. Se volete, come sempre, ci potete anche scrivere al 349 238 6666, monitoriamo gli sms ma anche WhatsApp. Un tema ancora caldissimo, questo lo sarà probabilmente ancora per settimane, per mesi. Peraltro ieri, sapete, ad Arezzo un'altra manifestazione con tutti i contorni politici perché è stata organizzata dal Movimento 5 Stelle. Detto questo, dottor Nicastro, i giornali ne hanno scritto molto e anche noi abbiamo fatto molte puntate sul tema, però sentirlo direttamente da lei crediamo abbia un valore in più. Solo per partire, per fare un velocissimo riepilogo della situazione e per capire bene anche il lavoro che sta facendo lei, cosa è successo esattamente a novembre a questi 4 istituti di credito, spezzettando, facendo lo spezzatino fra 2, separando in 2 le banche? Esattamente cosa si è fatto, cosa gestisce lei ora esattamente? Certo, ma allora, qual è la situazione di metà novembre che esisteva appunto prima del famoso weekend del 22? Di fatto c'erano 4 banche con, diciamo, capitale vicino a zero con una posizione di liquidità tirata, di fatto sostanzialmente inattive dal punto di vista del contributo che potevano dare sul territorio. Esisteva una forte preoccupazione rispetto alla scadenza del 1 gennaio come introduzione del famoso bail-in, e terzo aspetto, comprendiamo che i lavori che si stavano facendo sulla possibilità di coinvolgere il famoso fondo di risoluzione avevano ricevuto una sorta di semaforo rosso da parte dell'Unione Europea. In quel contesto nasce il decreto e fisicamente pochi ore prima, diciamo, dell'uscita del decreto è stato chiesto a me, è stato chiesto alla dottoressa Pierdicchi, con professione indipendente, e a 4 ministri legati di, diciamo, far parte di questi 4 consigli che infatti sono anche un po' una task force, con il duplice obiettivo di, da una parte, riattivare il il lavoro e la funzione delle banche sui territori, quindi facendo anche un po' ripartire le banche sui territori, ripeto, prima erano sostanzialmente inattive a causa della mancanza di capitale e liquidità, e dall'altra parte invece seguire il processo di cessione, visto che la condizione posta all'Unione Europea per dare luce verde a questa operazione è stata proprio il ricollocamento in mani private in tempi molto molto rapidi. E quindi da quel punto, diciamo, con il decreto alle spalle è iniziato il nostro lavoro, decreto che, diciamo, letto oggi appare come un decreto che ha da una parte di fatto messo in sicurezza sostanzialmente 1 milione di clienti delle 4 banche, no? Che avrebbero rischiato in ipotesi diverse, ha messo in sicurezza 200.000 piccole imprese che avrebbero rischiato, diciamo, di essere revocato il fido in condizioni diverse, ha messo in sicurezza 7.000 posti di lavoro e la tenuta economica di province molto importanti per l'Italia, no? Come Ancona, Macerata, Ferrara, Pesaro, Chieti, Arezzo, eccetera, Viterbo. Dall'altra parte, evidentemente, però, questo decreto ha anche azzerato gli obbligazionisti subordinati, che non se l'aspettavano, uh-huh. E ha azzerato anche gli azionisti. In questo caso va detto che il valore residuo del capitale era estremamente limitato. Nel caso degli azionisti l'aspettativa che il valore fosse zero era probabilmente maturata già da molto tempo, cioè dal momento in cui le banche erano state commissariate. E quindi lei adesso sta gestendo appunto queste nuove banche tornate alla piena attività, che gestiscono quindi i rapporti con i clienti, famiglie e imprese, continuano a sostenere il tessuto industriale del territorio. Se posso, hanno ripreso a sostenere, nel senso che lo facevano ante commissariamento. Il commissariamento ha lavorato in un contesto in cui di fatto non c'era capitale, no? Per poter procedere e riprendere bene attività creditizie. I commissari sono concentrati a fare, in gergo, attività di pulizia, a rimettere a posto i processi creditizi. Arrivato il capitale, arrivata la liquidità con il decreto il 22, a questo punto le banche si sono messe, diciamo, a lavorare con sprint sul credito. E per dare un'idea, anche grazie al fatto che, diciamo, le persone delle banche non sono risparmiate in queste settimane, perché ovviamente avevano questo incarico, di fatto sono stati erogati qualcosa come circa 10.000 fidi, e dall'altra parte sono stati anche dati 3.000 mutui. Mutui casa, che evidentemente, diciamo, dimostra il fatto che le banche hanno riniziato a funzionare rispetto ai propri territori. Oltre a questo, arrivando rapidamente ai giorni nostri, dottor Nicastro, stasera, quella di oggi è una data importante, perché il 19 gennaio ha preso il via il processo di valorizzazione e cessione delle Good Bank. Questo è un avviso peraltro che è stato pubblicato anche sui principali quotidiani nazionali ed internazionali, e entro le 18 di questa sera voi vi aspettate, completerete praticamente la raccolta di tutte le manifestazioni di interesse che saranno arrivate in questo frangente. Ha delle notizie per noi? Possiamo avere delle anticipazioni? Quante ne sono arrivate? Candidati interessanti? Può dirci qualcosa? Ma guardi, allora, appunto, la scadenza è quella delle 18, e quindi sapremo noi stessi dopo quell'orario che cosa sarà arrivato. Quello che ci aspettiamo è che gli interessi arrivino sia dall'estero che dall'Italia, che gli interessi possano arrivare sia da banche che da operatori di private equity. Peraltro è il primissimo passaggio, oggi l'interesse, diciamo, è semplicemente un interesse a ricevere, diciamo così, la brochure delle 4 banche, no? In gergo si chiama il teaser, no? Però si capiranno poi, diciamo, quanto significativi sono gli interessi nelle fasi successive. È proprio, come dire, il primo stadio abbastanza in linea con quelli che sono tipicamente queste procedure, che devono essere molto trasparenti, che devono essere il più competitive possibili, perché di fatto stiamo parlando di banche che oggi sostanzialmente sono a capitale pubblico. Dottor Nicastro, lasciando da parte naturalmente tutte le polemiche politiche che afferiscono particolarmente ad una di queste 4 situazioni, lei personalmente qual è la situazione più difficile fra le 4 che ha trovato? Ma guardi, direi che, diciamo, ogni banca ha situazioni diverse. quindi è difficile fare graduatorie. Certamente l'attenzione mediatica che vi è stata verso una delle quattro ex banche è stato un punto di attenzione, però devo anche dire che se vediamo per esempio appunto il modo con cui i colleghi agli sportelli sono attivati proprio per far comprendere il valore aggiunto di tornare ad avere una banca capitalizzata e ben e liquida nel rapporto col territorio, insomma questo ha compensato la maggiore attenzione mediatica. Allora ci fermiamo, abbiamo il traffico 800240024, al nostro microfono questa mattina Roberto Nicastro, presidente delle quattro good bank nate dal famoso provvedimento salva banche di fine novembre. Adesso abbiamo un po' ripristinato l'attenzione sulla situazione generale, ora dopo la pausa naturalmente dedicheremo la nostra attenzione agli obbligazionisti che aspettano di essere risarciti, indennizzati anche da questo provvedimento del governo contenuto dal fondo di salvataggio da 100 milioni di euro appunto che è stato varato, ma che come abbiamo definito spesso e volentieri è una coperta troppo stretta per tutti, visto che complessivamente gli obbligazionisti con titoli azzerati in portafoglio detengono bond strutturati appunto in portafoglio per 329 milioni di euro, e quindi cercheremo di capire anche dal dottor Nicastro, che in realtà gestendo le good bank non ha titolo per intervenire in questa materia, ma naturalmente avrà delle idee molto precise su anche l'orientamento che l'autorità anticorruzione appunto deve prendere per gestire le procedure arbitrali. Insomma, ancora tanta carne al fuoco, a tra pochino. Cuore e denari. Non sappiamo ciò che le nuove banche potranno prometterci o potranno fare. Vero è che noi cercheremo in tutte le sedi che riteniamo opportune di ottenere questo ristoro per gli investitori coinvolti in questa vicenda. Presidente Nicastro, questa era Letizia Giorgianni, portavoce del Comitato sì. Vittime del Salvabanche, che lei conoscerà, l'avrà incontrata, immagino. Sì, è stata incontrata dalla dottoressa Pierdichi e dal dottor Bertola, certamente. Allora, il governo ha predisposto, settimane scorse, un fondo di salvataggio da 100 milioni di euro per tentare di risarcire una parte degli obbligazionisti delle quattro banche risolte che detengono bond strutturati per 329 milioni di euro. Il governo ha pensato di stabilire dei criteri con cui risarcire questi risparmiatori, affidare il lavoro a Raffaele Cantone, o meglio all'autorità anticorruzione. Il Ministero dell'Economia sta lavorando, da quello che ci risulta, sulla parte dei criteri dei rimborsi. L'ANAC invece sta concentrandosi su come organizzare gli arbitrati. Un lavoro per entrambe le figure molto complicato, perché bisogna sciogliere diversi nodi giuridici, e questo è il punto fondamentale per individuare chi ha diritto all'indennizzo e per quanta parte delle obbligazioni subordinate in suo possesso. E poi, come si sa, è probabile che a quelli che verranno riconosciuti come risparmiatori più deboli potrebbero essere riconosciute delle restituzioni integrali del capitale. Dottor Nicastro, in questo lavoro lei ha voce in capitolo? Ma guardi, no, questo lavoro è un lavoro appunto molto molto complicato, su cui gli attori che lei ha citato non credo stiano risparmiando energie, quindi le banche sono, diciamo, fornitrici di informazioni rispetto appunto a questo progetto molto molto importante per i risparmiatori che sono stati colpiti. Qualcosa, diciamo, possiamo dire per leggere questo progetto e questo percorso? Ma direi anzitutto credo sia importante fare dei ragionamenti relativamente alla situazione complessiva dei risparmiatori coinvolti, rispetto ai quali, diciamo, credo non sia corretto, diciamo, fare, come dicevi, tutta l'erba un fascio, nel senso che abbiamo situazioni molto molto diverse, eterogenee dal punto di vista di anzitutto ad esempio competenza dei risparmiatori stessi. Ci sono risparmiatori appunto che hanno una competenza relativamente limitata, risparmiatori invece che hanno una competenza molto maggiore rispetto ai titoli coinvolti. Ci sono differenze rispetto al grado di concentrazione nei portafogli dei titoli coinvolti, ci sono differenze rispetto anche al momento dell'acquisto. Nella lettura che oggi possiamo dare, occorre in qualche modo pensare a quello che era il rischio oggettivo al momento dell'acquisto. Faccio degli esempi concreti. È diversa la situazione di, per esempio, un risparmiatore che acquista i titoli in periodi non lontani e precedenti i momenti del commissariamento, no? Il rischio è oggettivamente più alto. Ancora è diverso invece la situazione di chi acquista questi titoli ben dopo il commissariamento, quando tra l'altro i titoli erano già scesi parecchio. E quindi lei dice nella piena consapevolezza guardi, non sappiamo, però diciamo sono un po' di elementi che ci fanno pensare che le consapevolezze potessero essere più alte e più basse, no? Lo stesso prezzo è uno di questi elementi. Ancora, elemento molto importante da osservare è che quasi metà dei collocamenti sono stati realizzati ante 2008, no? Ante Lehman Brothers, e addirittura a quel punto siamo ben 6 anni prima della direttiva europea del bail-in, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in quel momento in realtà i titoli subordinati erano percepiti unanimemente come titoli un po' più rischiosi rispetto alle obbligazioni ordinarie, ma allora il comune sentire di tutti era che le banche non potessero fallire, no? Questo era il sentiment di allora. Ecco perché non c'è soluzione diversa dal caso per caso per comprendere quella che è la situazione dei singoli risparmiatori. Ci pare di capire che questo è l'approccio che si voglia prendere in questa direzione. E il vostro contributo in questo lavoro che starà facendo Cantone Collane, che è quello di fornire con le vostre task force, se non ho capito male, tutta la documentazione per risalire alle modalità di sottoscrizione dei bond subordinati, giusto? Esattamente. E questa è la cosa proprio che può consentire proprio di fare luce e avviare proprio l'azione concreta di indennizzo dei risparmiatori sulla base appunto di questa azione caso per certo. caso. Purtroppo ci rimangono pochi minuti di tempo, ma dottor Nicastro, nelle bad bank ci sono finiti le obbligazioni subordinate, ma anche le azioni delle vecchie banche, visto che le banche non esistono più, sono state azzerate appunto anche le azioni. Volevo ritornare su questo punto: perché la good bank non può riconoscere un valore alle persone detentrici, agli risparmiatori detentrici di vecchie azioni? È proprio impossibile ipotizzare un'iniziativa per gli azionisti di queste banche senza che vi rientri il fondo di solidarietà del Ministero? Cioè loro dicono, noi comunque eravamo azionisti di tutto, quindi anche il buono che è stato separato dal brutto, dal cattivo, perché noi non possiamo almeno di quei 100 che avevamo in azione avere 3 della nuova banca? Guardi, due riflessioni. Premesso che per esempio noi stessi abbiamo detto che poter immaginare un utilizzo per esempio del ricavato delle azioni di responsabilità a beneficio dei risparmiatori colpiti sarebbe una cosa importante, no? Perché poi andando a vedere le responsabilità è molto molto importante andare indietro a vedere dove e come si sono generati gli stessi, no? Chi ne ha responsabilità. Lì ci sono già azioni avviate per oltre 500 milioni di euro e diverse altre sono in avvio. Per quanto attiene il rapporto tra entità, perché qua il quadro è complicato, purtroppo abbiamo le good bank, abbiamo le bad bank che non c'entra nulla perché sono quelle dove ci sono le sofferenze. Poi la terza entità, che è quella a cui fanno riferimento eventualmente risparmiatori, obbligazionisti subordinati, eventualmente azionisti, sono le cosiddette residual entity, no? Cioè la vecchia banca in qualche modo, no? Che ha ancora una sua entità giuridica e che è attualmente in liquidazione. Allora, quello è l'oggetto verso cui azioni legali si possono indirizzare. Il decreto e prima ancora la normativa europea da cui discende sostanzialmente fa questo ragionamento, dice per le good bank per poter funzionare devono essere capitalizzate e poter lavorare da subito senza incertezza, e quindi come un po' in tutti i procedimenti di risoluzione sono stati appunto messi in sicurezza la stragrande maggioranza dei portatori di interesse verso le vecchie banche. Sì. Sono rimasti fuori purtroppo e per noi sono clienti importanti, quindi stiamo cercando di capire, no, tutte le cose che si possono fare per aiutarli, ovviamente gli obbligazionisti subordinati e appunto gli azionisti. Questa credo che sia, diciamo, la logica del provvedimento. Chiaro. È un punto un po' complicato che magari sarà necessario che torni a spiegarci. Dottor Nicastro, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. 30 secondi di tempo per chiedere. Le banche sono al centro dell'agenda politica di questa settimana. Il governo è pronto a varare la riforma delle banche di credito cooperativo e probabilmente approverà anche il provvedimento per la creazione della grande bad bank italiana, la misura per alleviare il peso delle sofferenze sui bilanci bancari. La sua idea su questo tema in 20 secondi. Credo che possa essere un passaggio importante. In un contesto, quello del settore bancario italiano, che a prescindere dall'andamento in borsa la settimana passata, a me sembra in forma migliore oggi rispetto a quanto fosse 9 mesi fa. E faccio riferimento ad esempio al decreto sull'insolvenza passato a luglio, che era molto molto importante per consentire la gestione dei non performing loans. In generale il sistema bancario italiano ha una posizione dal punto di vista ad esempio di temi tecnici come leverage ratio, piuttosto che il modello di business, forse un po' più noioso rispetto ai sistemi stranieri, ma certamente molto più sano e molto più orientato all'economia. Non è un caso che sino a caso di queste quattro banche, non sono stati richiesti, diciamo, quattrini pubblici, e a seconda di come va anche l'accessione, anche in questo caso potrebbero non esserci necessità di quattrini. Donne! Tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Cuore e denari. Un caffè e un cappuccio, grazie. Volevi un dolcino? No, ho fatto un pezzo di colazione a casa. Zucchero bianco, di canna, dolcificante? Non so, di canna. No, prendo il dolcificante. Ma no, dai, lo bevo così, amaro. E voi che cosa avreste risposto? Zuccherate il vostro caffè? 800 24 00 24, seconda parte di Cuore Denari, parliamo di zucchero. Vogliamo anche sapere quanto è dolce la dieta dei vostri bambini. Intanto che me lo raccontate al nostro numero verde, andiamo subito a salutare l'ospite di oggi. Abbiamo in linea il dottor Franco Berrino, medico, patologo, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva del l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, autore di numerosi studi sul rapporto fra stile alimentare, livelli ormonali e successiva incidenza del cancro, sperimentazione sullo stile di vita per prevenire l'incidenza del cancro al seno e delle sue recidive, è promotore del progetto Diana per la prevenzione alimentare del carcinoma mammario e coordinatore della ricerca sulla sopravvivenza dei malati di tumori in Europa. Autore di numerosi saggi e libri, l'ultimo in ordine di tempo si intitola Il cibo dell'uomo, Franco Angeli editore. Buongiorno dottor Berrino, bentornato e grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Dottor Berrino, lei di zucchero nel caffè non ne aggiunge, e in tempi non sospetti, quando ancora lo zucchero non era finito sotto i riflettori e godeva di fama di alimento buono, almeno utile a rendere la vita meno amara, lei aveva preso posizioni molto chiare. E oggi, a distanza di tempo, gli studi scientifici dimostrano che lo zucchero è tutt'altro che salutare, quindi andrebbe ridotto a partire dall'alimentazione dei nostri bambini o eliminato del tutto. Il Parlamento europeo è stato molto chiaro. Ma non è semplice però, dottor Berrino, come sempre, no? Perché sentiamo un po' il bisogno di dolcezza, quasi un richiamo per alcuni, e poi non possiamo dimenticare che lo zucchero si trova un po' ovunque, nei piselli in scatola, nel pane, nelle fette biscottate, forse perché, come lei più volte ha ripetuto, è un modo per far sembrare buone delle cose che non sono buone. Ma dottor Berrino, perché lo zucchero è così dannoso? È un problema di dosi o è l'alimento in sé a nuocere? Sicuramente è un problema di dosi, però comunque non abbiamo bisogno di mangiare zucchero, perché non serve assolutamente a niente, no? Si diceva una volta, sapete, no? Lo zucchero fa bene al cervello, ma in realtà non è lo zucchero che fa bene al cervello, è mantenere una glicemia costante che fa bene al cervello. Il nostro cervello è il principale consumatori di glucosio nella nostra, tra i nostri organi. E se noi però mangiamo tanti zuccheri e tanti alimenti che fanno alzare tanto la glicemia nel sangue, noi rischiamo di danneggiare il funzionamento cerebrale, perché più zuccheri si mangiano, più sale l'insulina, sale la glicemia, sale l'insulina, che fa abbassare rapidamente la glicemia, e quindi ci ritroviamo in ipoglicemia, e allora il cervello non funziona bene. È la ragione per cui i bambini a scuola alla fine della mattina sono disattenti, sono distratti, sono nervosi, e si giunge addirittura a dargli dei tranquillanti per renderli meno nervosi. No, bisogna ridurre lo zucchero. Bisogna ridurre lo zucchero. Intanto voi cercate di quantificare quanto è dolce la dieta dei vostri bambini e quanto è la vostra. Naturalmente oggi insieme al dottor Berrino non parleremo solamente di zucchero, ma apriremo i microfoni per darvi modo di porre tutte le domande al nostro esperto, per cercare di chiarire dubbi magari sull'utilizzo di alcuni alimenti che finiscono abbastanza chiacchierati e che finiscono nonostante tutto sulle nostre tavole. 800 24 0024. Dottor Berrino, l'abbiamo anticipato in apertura, no? Il consumo di zucchero è un tema che sta a cuore non solo al Parlamento europeo, ma anche il Ministero della Salute inglese ha promosso una campagna per invitare i genitori a riprendere un po', no? Il controllo delle abitudini alimentari dei loro figli, mettendo tra l'altro a disposizione anche un'app gratuita che rivela quanto zucchero è presente negli alimenti e nelle bevande consumate quotidianamente. Questa è una buona cosa, no? Tra l'altro ho letto, dottore, che secondo i dati bambini inglesi consumano in un anno una quantità di zucchero pari al loro peso corporeo, corrispondente a 5.543 cubetti di zucchero. E la campagna del ministro inglese avverte che a 5 anni di età bisognerebbe consumare l'equivalente di 5 zollette di zucchero al giorno. Non vuol dire non superare. Non bisognerebbe mangiarne di più. Ecco, il che non vuol dire che 80 anni sono 80 zollette, a 100 anni 100 zollette. Insomma, lei che cosa ne pensa? Quale consiglio possiamo dare agli ascoltatori che hanno bambini in età scolare o che vogliono in qualche modo apportare delle modifiche alla dieta dei loro bambini? Ma allora, ai genitori che hanno dei bambini in età prescolare, il consiglio è che lo zucchero non glielo facciano neanche assaggiare. Ai bambini piace l'intensità di dolce che c'è nel latte della mamma, che è dolce ma è veramente poco dolce rispetto a tutti i nostri dolci commerciali. Quindi non facciamo assaggiare lo zucchero e soprattutto non facciamo assaggiare le bevande zuccherate. Quello che i bambini assaggiano nel primo anno di vita rimarrà qualche cosa a cui sono affezionati. Per cui non avranno questo desiderio smodato di zucchero che hanno certi bambini. In età scolare, quando i bambini sono già stati violentati dall'industria alimentare con la sua pubblicità e quindi hanno già assaggiato di tutto, si tratta di avere un'altra strategia. Si tratta di noi quello che cerchiamo di fare è di cucinare con i bambini e fare dei dolci con loro, farli fare a loro, no? Farli in modo tale che ai bambini piace molto pasticciare in cucina, impastare, fare, no? Fargli vedere come sono buoni dei dolci senza zucchero. Di cui lei poi ci regalerà una ricettina, perché ogni volta che viene a Cuore Denari una ricettina del dottor Berrino noi vogliamo portarla a casa. Allora, intanto abbiamo Orfeo da Verona e Gaetano da Napoli. Andiamo a sentire che cosa ci raccontano. Orfeo, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo già sentiti qualche tempo fa per quanto riguarda la dieta iposodica. E adesso volevo portare la testimonianza per la dieta senza zucchero. Sì. Noi non usiamo zucchero, io e mia moglie abbiamo deciso di eliminarlo dalla dieta, difatti noi beviamo il caffè amaro e alla mattina solo un po' di miele. Quando andiamo al supermercato guardiamo tutte le etichette e eliminiamo tutte quelle che contengono zucchero e sale, quindi diciamo che una scelta legge le etichette, ha ridotto, ha eliminato lo zucchero, come sta? Benissimo, questa è la testimonianza di Orfeo. Andiamo a Gaetano, buongiorno da Napoli, che cosa ci racconta? Buongiorno, anch'io ascoltando la vostra trasmissione ho eliminato lo zucchero e anche il sale. solo qualche cioccolattino ogni dopo tanto mangiato la sera, a volte qualche piccolo cioccolattino. Dottor Berrino, allora, ha sentito Orfeo e Gaetano? Va benissimo eliminare lo zucchero. No, non va bene eliminare il sale. Il sale sì che è un alimento indispensabile per il funzionamento del nostro corpo, semplicemente ne mangiamo troppo. Ma per esempio chi ha un'alimentazione prevalentemente vegetariana, quindi non mangia carni che sono formaggi che sono molto ricchi di sale, è bene che nel cucinare usi un po' di sale. Non bisogna confondere le due cose. No, non bisogna confondere le due cose, non bisogna soprattutto esagerare. In effetti, come il dottor Berrino ha sottolineato, il consumo, spesso consumiamo troppo sale, quindi un'attenzione anche al consumo di sale è importante. Dottor Berrino, no allo zucchero, ma ci sono alternative? Leggo che gli ascoltatori chiedono un suo parere sul miele, sullo sciroppo d'agave, insomma al dolce rinunciamo a fatica, ma da quanto lei ci ha detto, allora, mi pare di capire che non si tratta di sostituire uno zucchero con un altro. No, non bisogna rinunciare al dolce, bisogna fare dei dolci senza zucchero, utilizzando fondamentalmente la frutta. La frutta è zuccherina, no? E quindi e contiene glucosio, fruttosio, saccarosio, ma contiene anche mille altre sostanze che ci difendono dall'effetto negativo dello zucchero. La componente più negativa dello zucchero è il fruttosio, non è tanto il glucosio. Pensate, non bisogna mai dolcificare con il fruttosio. Lo sciroppo d'agave che va tanto di moda adesso, no? È praticamente fruttosio, per l'80-90% è fruttosio, anche se fosse solo polimeri del fruttosio andrebbe abbastanza bene, ma c'è moltissimo fruttosio libero. Il fruttosio ostacola il funzionamento dell'insulina, il fruttosio è molto negativo per i diabetici, i diabetologi raccomandano adesso ai loro pazienti di non dolcificare con il fruttosio. Per cui nella frutta c'è il fruttosio, ma c'è anche il contravveleno del fruttosio, che è la vitamina C, che sono dei polifenoli, no? Che ti permettono di accettare questa quantità, questa mix di migliaia di sostanze che ci sono nella frutta, no? E che vanno bene per dolcificare. Quindi facciamo la nostra torta di mele, facciamo il nostro strudel, facciamo i nostri muffin utilizzando le mele, le pere, l'uvetta sultanina, le albicocche secche. Sfruttiamo il potere dolcificante della frutta. E di alcuni alimenti. Allora, quindi mangiamo pure il caffè amaro e però possiamo mangiarci un biscottino dolce senza zucchero assieme. 800 24 0024, un numero per avere indicazioni sull'alimentazione migliore per crescere i vostri bambini, ma anche per conoscere gli alimenti che svolgono un'azione protettiva e preventiva nei confronti di alcune malattie. Il dottor Berrino resterà con noi sino alle ore 12, ma vi invito anche a chiamare se soffrite di piccoli disturbi che incidono sulla qualità di vita. E oggi avremo anche l'occasione di parlare dell'alimentazione che aiuta la guarigione e previene le recidive della malattia, perché ormai è noto a tutti che la chiave decisiva della salute è il cibo. Se ne avete esperienza, chiamateci al nostro numero verde. Intanto andiamo a Udine da Giulia. Benvenuta Giulia. Buongiorno. Benvenuta e buongiorno anche a lei. Buongiorno, forse avete già risposto in parte al quesito che volevo porre al medico. Io cerco di stare attenta nell'alimentazione mia e anche dei miei bambini. Ho due bambini che hanno 8 e 11 anni. Sì. Voglio dire, lo zucchero di zolletta a casa nostra non c'è, perché un tè una volta ogni tanto, però dico nel latte i bambini e nel caffè io non lo mettiamo, però nei dolci, nei biscotti comunque lo zucchero c'è, una torta alla settimana insomma si fa, i biscotti servono per fare colazione e in tutti gli altri alimenti lo zucchero non, sì, se non quello che mettono già negli alimenti che noi compriamo già pronti, che cerco di evitare, però non c'è moltissimo zucchero. Comunque ho una bambina che è in leggero sovrappeso, quindi forse si comunque interroga Giulia se, insomma, dottor Berrino, sicuramente c'è una relazione tra consumo di zucchero e sovrappeso, è uno dei fattori predisponenti, certo. L'obesità infantile, la campagna ad esempio inglese voleva proprio andare lì, ridurre l'obesità infantile che in qualche modo incide poi pesantemente sulla salute futura dei nostri bambini, è così dottor Berrino? È così, ma allora la prima cosa da fare assolutamente importante è togliere lo zucchero liquido, cioè non mangiare le bevande zuccherate, non bere le bevande zuccherate, questa è la cosa principale. E poi comunque si possono fare delle ottime torte in casa senza usare lo zucchero. Adesso vi do una ricettina brevissima. E dai, questo aspettavamo, dottor Berrino. Tre ingredienti. Poi prendete le patate dolci, la patata americana. Fate bollire con la buccia, fate una purea, anche la buccia la tagliate, ci vogliono un quarto d'ora per fare bollire, per fare cuocere la patata, la buccia la tagliate a pezzettini, la mescolate con la purea e poi impastate questa purea con la farina di mandorle, che potete comprare come tale oppure potete fare in casa con il frullatore con le mandorle, circa metà e metà. Se fate asciugare un pochettino di più la purea, mettete un po' meno mandorle, così i biscotti costano un po' meno cari, perché sono le mandorle che perché siamo cari. Anche cuore denari, dottor Berrino, mi è piaciuta questa. E allora poi fate delle palline con questi, la schiacciate un po' e la mettete a asciugare al forno. Sono dei biscotti meravigliosi, sono dolci, piacciono a tutti. Se volete potete anche arricchirli, potete far rotolare queste palline sui semi di sesamo, che sono molto ricchi di calcio. E così quando mettete i biscotti al forno, i semi di sesamo si tostano e danno un gustino ancora delizioso. Quindi ci sono mille dolci senza zucchero. Senta, dottor Berrino, ma chissà se lei è in grado di rispondere a Roberto, che ci chiama da Livorno, ci scrive su WhatsApp da Livorno e dice: e la marmellata? Come la facciamo senza zucchero? Come si fa a rinunciare alla marmellata? Si fa benissimo senza zucchero. Io ho degli alberi di prugne, raccolgo le mie prugne, le snocciolo, le faccio bollire, soltanto che mi rimane molto liquido. Allora faccio dei barattoli di succo di prugne e dei barattoli di polpa di prugne. Li metto nei miei vasi borgnoli, chiudo bene, lascio raffreddare. Quando sono freddi li metto a bagnomaria, porto a ebollizione, spengo il fuoco, si conservano perfettamente. Non c'è nessun rischio di botulino, perché la frutta è acida e il botulino non ama l'acido. E quindi si fa la marmellata senza zucchero. Dottor, ecco, con le pesche, così abbiamo, non vengono tanto bene. Così abbiamo risposto a Roberto da Livorno, ma per tutti coloro che ci scrivono: il miele d'acacia, il miele di castagno, si può utilizzare il miele? È un sostituto valido allo zucchero, magari spalmato su del pane integrale? Non consideriamolo come sostituto, cioè lo zucchero l'uomo non l'ha mai mangiato, è una cosa degli ultimi 2-3 secoli, il miele l'ha sempre mangiato anche dall'antichità, però ne mangiava in piccole quantità perché non era facile avere il miele adesso, per cui usiamo pure il miele, gli zuccheri del miele sono un po' meno nocivi perché nel miele ci sono tante sostanze protettive anche, ma allora prendiamo due accorgimenti: uno, mangiamolo anche con un grasso di buona qualità, perché i grassi rallentano la velocità di assorbimento del glucosio. Quindi sul nostro fatto di pane integrale mettiamo per esempio un velo di tahini, del burro di sesamo, e poi un po' di miele, oppure mescoliamo il miele con il tahini. E poi magari non mangiamolo a colazione appena alzati, non diamolo a colazione ai nostri bambini, diamolo a merenda dopo che hanno fatto la partita al pallone, dopo che si sono proprio stancati. Noi bambini sono meravigliosamente attivi, no? E quando si sono così stancati che non c'è più zucchero nei loro muscoli, anche se mangiano qualche cosa di molto dolce come il miele, no? Questo andrà a rimpiazzare il glucosio nei muscoli e non gli farà male. Per cui siamo prudenti con il miele. Però non dobbiamo eliminarlo dalla nostra dieta, assolutamente. 800 24 00 24, prima di andare a sentire che cosa ci racconterà Deborah, se sono dolci i mercati o se sono diventati neutri stamattina, andiamo a Varese, perché c'è Gianni. Buongiorno Gianni. Buongiorno. Eccoci qua Gianni, che ci racconta? Buongiorno, volevo semplicemente dire che io onestamente non mi faccio dei grossissimi problemi, cerco di usare lo zucchero con moderazione, farlo con moderazione, però qualche gratificazione me la do anche e cerco magari di compensare facendo magari una corsa, andare in bicicletta, anche quella è una gratificazione. E poi insomma, morir sani è anche un gran peccato. Allora, questa, dottor Berrino, è un po', Gianni ha sintetizzato anche alcuni messaggi che ci dicono in sostanza, no? Ma allora, si vive da malati per morire da sani. Sembra che quando noi dobbiamo fare attenzione a quello che mangiamo, fare delle sostituzioni, magari provare anche degli alimenti nuovi, allora c'è un gruppo nutrito, direi, di ascoltatori che si tira indietro. Dottor Berrino, sicuramente nelle sue conferenze lei avrà incontrato anche tante persone, no? Che le hanno mosso un po' questa obiezione. Certo, ma allora noi dobbiamo arrivare a morire sani, cioè morire senza malattie, è il regalo migliore che possiamo fare ai nostri figli, non ammalarci di cancro, non ammalarci di Alzheimer, e possiamo impegnarci a fare questo, e non abbiamo proprio nessun piacere della vita a cui rinunciare per fare questa cosa qua. Perché evitare lo zucchero non significa evitare il piacere lo si può ottenere benissimo con dei dolci fatti senza zucchero, se il nostro piacere è mangiare dolce. Per cui cerchiamo di fare il possibile per una longevità in salute. Il 90% delle persone anziane di sopra i 35 anni oggi in Italia prende quotidianamente farmaci, no? E poi finiamo per perdere ogni potere in una residenza per anziani. Guardate che abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri figli. Facciamo una bella torta senza zucchero, no? Godiamocela, e questo ci aiuterà a ridurre il rischio di ammalarci di malattie croniche che faranno soffrire noi e la nostra famiglia. E allora, dopo le informazioni sui mercati, continueremo a parlare insieme al dottor Berrino della nostra dieta. Parleremo anche naturalmente del consumo, non solamente di frutta e di verdura, ma anche del consumo di carne conservate, di latticini. 800 24 00 24, mettiamo a disposizione del nostro numero verde il nostro esperto, e quindi aspettiamo le vostre domande per fare un po' il punto della situazione. Tra poco. Cuore e denari. Sono un cotto di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero. Tempi duri per la Mary Poppins moderna, ne stiamo parlando oggi, stiamo parlando di zucchero, l'occasione ci arriva dal Parlamento europeo che proprio alla fine della scorsa settimana ha posto un veto sul progetto di norme comunitarie che permetterebbero agli alimenti per i bambini di continuare a contenere quantità di zucchero fino a 3 volte superiori ai limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ne stiamo parlando oggi insieme al dottor Franco Berrino. Un'occasione anche per così dare una fare una valutazione sulla nostra dieta. Ci sono degli alimenti che portiamo sulle nostre tavole con una certa frequenza, nonostante sappiamo bene che non godano fama di alimenti salutari. D'altronde, nonostante una mole di lavori confermi che siamo quelli che mangiamo e che la dieta sia responsabile del 30% dell'insorgenza dei tumori, amiamo ancora pensare e dire, abbiamo un nostro ascoltatore ce l'ha proprio detto prima dei mercati, che non si può vivere da malati per morire da sani, no? Invece quello che vorremmo fare, come il dottor Berrino sottolineava, è cercare di aggiungere salute agli anni di vita che abbiamo guadagnato, non solamente anni e soprattutto anni di malattia. 800 24 00 24, il dottor Berrino è con noi sino alle 12. Abbiamo subito in linea dei nostri ascoltatori a cui diamo, Deborah, la parola. Prima sì, cominciamo con di affrontare Chiara. Il capitolo carne, latticini, frutta e verdura, diete vegetariane, diete vegane. Attenzione che abbiamo anche Abele da Bergamo, quindi un nome impegnativo, ma diamo la precedenza a Chiara da Piacenza. Chiara, benvenuta. Salve, buongiorno, piacere di sentirvi sempre. Anche per noi un piacere sentirla, Chiara. Io ho fatto una scelta un po' diversa, nel senso che io ho proprio eliminato dalla mia alimentazione il pane e i dolci. Proprio io non li mangio mai, anche perché non mi sono mai piaciuti tanto. È fortunata. Esatto. Mangio tantissima frutta e verdura, cerco comunque di bilanciare l'alimentazione. Devo anche essere sincera, ho una madre medico, per cui in questo mi ha anche aiutato nella scelta che ho fatto. però comunque cerco sempre di variare. A casa mia i dolci non li abbiamo mai mangiati, fin da quando ero piccolina, e al posto dei dolci mangiavamo i cereali, la frutta, mai dolci. Qualche volta sì, però proprio... Dottor Berrino, insomma, Chiara... Adesso è perfetta, direi. Va bene mangiare cereali integrali, legumi, verdure, frutta, va molto bene. E i dolci si possono fare con la frutta e occasionalmente si può mangiare anche un prodotto animale, ma non tutti i giorni. Dottor Berrino, allora l'alimentazione di Chiara, lei è anche fortunata perché gli zuccheri non le piacciono, piace, forse non perché non è neanche stata abituata, no? Esatto. Stata abituata dalla mamma, certo, ad una dieta, certo, molto, certo, equilibrata, cosa che possiamo fare con i bambini in età ancora prescolare, non farli assaggiare, no, e poi semmai correggere. Non farli assaggiare le bevande zuccherate del zucchero. Andiamo a Bergamo? Andiamo da Abele, benvenuto Abele anche lei. Signora, buongiorno dottore. Una domanda rapidissima. Ridurre il quantitativo di zucchero può essere utile a ridurre il quantitativo di trigliceridi nel sangue o sono due cose completamente diverse? Grazie Abele. Lo zucchero contiene fruttosio e fruttosio è la principale causa dell'aumento dei trigliceridi nel sangue. Ecco, una risposta, una risposta chiarissima. Non ci sono equivoci, insomma. Nel fuori onda, no, Deborah era rimasta molto colpita dalla questione del fruttosio, dottor Berrino, che ha comunque un vissuto di un sostituto dello zucchero. Esatto, viene percepito come il famoso dolcificante da mettere in alternativa nelle bevande allo zucchero e quindi da ridurre, diciamo, l'apporto calorico. No, non mettiamo, allora, leggiamo le etichette. Se c'è scritto sciroppo di glucosio e fruttosio, non compriamo quella porcheria. Ah. Ecco, il dottor Berrino non è mai zi termini, ma dottor Berrino, anche i carboidrati sono zuccheri, allora valgono le stesse considerazioni? No, i carboidrati, ci sono alimenti che cedono zucchero piano piano. La ragazza diceva prima che ha eliminato il pane fa aumentare molto rapidamente la glicemia, ma la pasta per esempio no, la pasta cede zucchero piano piano quando la mangiamo, sapete chi corre la maratona? Qualche ora prima di partire si mangia mezzo chilo di spaghetti perché avrà un po' di glucosio per tutta la gara, no? Il pane integrale naturalmente cede meno rapidamente che il pane bianco. Il pane bianco sarebbe da evitare, mangiamo un pane vero, un pane fatto con il grano macinato. E invece quindi i vari carboidrati hanno diverse attività di aumento della glicemia. Chi ha la glicemia più alta anche all'interno dei valori normali si ammala di più di cancro, si ammala di più di altre malattie degenerative. E chi mangia tanti alimenti che fanno alzare la glicemia veramente fanno male. Ecco, attenzione, questo è un indicatore molto importante, il valore della glicemia. Dottor Berrino ci spiega per bene questo concetto che viene detto, ma secondo me non viene sottolineato nel modo adeguato, ecco. E brevemente vi dico l'importanza della glicemia per lo sviluppo dei tumori. Le cellule tumorali per vivere consumano 100 volte più glucosio delle cellule normali. Sapete che c'è un esame, la PET, no? La PET è un esame in cui si inietta del glucosio radioattivo in vena, il glucosio va un po' dappertutto ma va molto di più dove c'è il tumore, per cui con una radiografia si può vedere dove c'è il tumore. Sì. E gli studi sono coerenti nel mostrare che chi ha la glicemia alta, ma anche all'interno dei valori normali, si ammala di più di cancro rispetto a chi ce l'ha bassa all'interno dei valori normali. E per molti tumori è stato visto che i pazienti con tumore che hanno una glicemia piuttosto alta hanno più frequentemente metastasi rispetto ai pazienti con tumore che riescono a tenere bassa la glicemia. E per tenere bassa la glicemia conviene eliminare il pane bianco, le farine 0, 0, 0, no? Quelle che anche nei negozi biologici troviamo sempre in offerta, ed è una porcheria proprio questa cosa qua. Il riso bianco, anche i fiocchi di mais, i popcorn alzano molto la glicemia. Per cui vediamo invece di scegliere alimenti che non la fanno alzare. Vanno molto bene i legumi, vanno molto bene la frutta oleaginosa, le noci, le mandorle, le nocciole, in moderata quantità naturalmente, no? E aiutano proprio a rallentare la velocità di assorbimento degli zuccheri. E questi sono consigli che diamo anche ai malati di cancro. Certo, lei, dottor Berrino, in tante occasioni ha suggerito di ripensare a quello che mangiavano le nostre nonne, no? Cereali integrali, legumi, verdura, un po' di frutta. La dieta, che è la dieta mediterranea tradizionale, che oggi è venduta la dieta mediterranea come se contenesse anche carni e formaggi. No, carni e formaggi c'erano solo il giorno di festa. Arriviamo a carni e formaggi. Arriviamo tra poco, dopo Moira, che ci chiama da Venezia. Buongiorno Moira. Buongiorno a voi. Benvenuta. Grazie. Io volevo portare la mia esperienza. Conosco da parecchio tempo il dottor Berrino e lo seguo sempre quando è possibile. Ho cambiato qualche anno fa la mia alimentazione su consiglio della nutrizionista. E in realtà per me la vita è cambiata in maniera assolutamente significativa. Soffro di una malattia autoimmune e ho eliminato completamente il pane, la pasta, tutto ciò che viene preparato con le farine, diciamo, estremamente raffinate. Ho eliminato lo zucchero, la carne, ho eliminato il latte, i latticini. In realtà cosa mangia, chiede, Moira? Ma cosa ecco, mangia? Tutte queste ecco, dottor Berrino. Andando via via per esclusione, ecco, per esclusione così drastiche. Si continua a eliminare prodotti e no, non mangio la pasta, non mangio il pane, tolgo lo zucchero e riduco, cioè non mangio più carne. Non c'è il rischio, non mi riferisco al caso di Moira che probabilmente sarà seguita, ma di impoverire troppo la nostra alimentazione, perché sono tanti i movimenti che stanno cercando di creare nelle persone una maggiore consapevolezza del proprio stile alimentare, a partire dalla necessità di diminuire il consumo di carne rosse, di limitare gli alimenti ricchi di grassi e di zuccheri, dei prodotti industriali o coltivati con l'utilizzo di pesticidi. Ma a me piacerebbe aggiungere, dottor Berrino, senza estremismi, con competenze, un po' di criterio, è d'accordo? Con un po' di criterio, certo. Bisogna qualche prodotto animale, bene che ci sia, ma probabilmente la signora mangerà un po' di pesce. Lei ha detto che ha una malattia autoimmune, quindi ha fatto benissimo a togliere la carne, il latte e lo zucchero. Ma probabilmente mangerà un po' di pesce che gli darà sufficienza di vitamina B12 e non c'è problema. Nell'alimentazione vegetale c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno, fuorché fondamentalmente la vitamina B12, che possiamo prendere per esempio integrando con un po' di pesce. Il rischio di cambiare alimentazione, di impoverire la nostra dieta c'è, bisogna farlo in un modo intelligente. E spesso a volte chi cambia soltanto per ragioni etiche, per esempio per non mangiare prodotti animali, per rispettare gli animali, senza conoscere, rischia magari di mangiare troppo zucchero, troppa birra, troppe bevande zuccherate, no? Che sono cose che non vanno tanto bene, insomma, non bisogna cambiare, sì, ma cambiare con intelligenza. Dottor Berrino, quindi anche l'alimentazione dei vegetariani e dei vegani può presentare delle criticità che possono poi tradursi in danni per la salute o sono da considerare stili alimentari senza macchia? No. Ecco. Anche un vegano può mangiare molto male, no? Per cui bisogna invitare i vegani ad essere un po' colti sull'alimentazione, fondamentalmente eliminando i prodotti iperraffinati che offre l'industria. Se il vegano mangia i prodotti naturali non avrà nessun problema e se ci preoccupa un po' della sua vitamina B12. Ma si tratta anche di vedere le cose proprio complessivamente. Noi abbiamo un progetto in corso che si chiama MEMEME, in cui reclutiamo nella zona di Milano, nelle persone che possono venire facilmente a Milano, delle persone che hanno la sindrome metabolica, cioè che hanno la pancia, che hanno le dislipidemie, colesterolo, trigliceridi, glicemia, pressione alta, persone al di sopra dei 55 anni, perché noi vogliamo aiutarli a modificare l'alimentazione per morire meno di cancro, per morire meno di diabete, per morire meno di Alzheimer, per morire meno di infarto. Il progetto si chiama MEMEME, trovate MEMEME su internet, trovate MEMEME sul sito dell'Istituto dei Tumori di Milano e vediamo che la gente si stupisce all'inizio di questa alimentazione sana che proponiamo, ma presto se ne innamora perché è un'alimentazione molto buona, gastronomicamente molto soddisfacente. E infatti, dottor Berrino, ci sono già delle ascoltatrici che ci scrivono: Debora, Nico, postate le ricette del dottor Berrino sulla vostra pagina. Allora adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo, chiederemo delle informazioni aggiuntive su questo progetto di cui il dottor Berrino ci ha parlato. Naturalmente parleremo anche di carne, di latticini e di frutta e verdura. A tra poco. Cuore e denari. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Quanto è buona la vostra dieta, quanto è buona dal punto di vista del gusto, ma è quanto è buona anche dal punto di vista della salute. 800 24 00 24, ne stiamo parlando oggi col dottor Franco Berrino e abbiamo Katia da Forlì e subito dopo Valerio. Dopo abbiamo Valerio. Che non ho aperto il microfono, qua Valerio da Roma è pronto, sì. Katia, benvenuta. Pronto. Eccola, buongiorno. Ah, qua introduciamo di nuovo il capitolo zuccheri. Allora, volevo sapere dal dottor Berrino il zucchero di canna, zucchero di canna, zucchero integrale, che dicono che fa molto meglio del zucchero bianco, sbiancato, che questo contiene più... sali minerali. Insomma, Katia, questa è l'idea di vivere senza zucchero, senza aggiungere i cucchiaini, non ci piace. È un po' fatica. Dottor Berrino, cercano di portarla da tutte le parti e metto questo e prendo l'altro. Dottor Berrino, Katia, no, le propone lo zucchero di canna. Allora, lo zucchero di canna, quello che trovate al bar, è uguale allo zucchero bianco praticamente. Lo zucchero integrale, effettivamente, quello molto scuro che sembra umido, non cristallino, è un po' meglio, nel senso che non è proprio saccarosio puro, non è una sostanza chimica pura come lo zucchero bianco, e contiene un po' di sali minerali, un po' di proteine, e per cui va bene come il metadone, no? Per chi fa eroina, no? Per cui passi a questo zucchero di canna e ne metta progressivamente sempre molto meno. E quindi un passetto è per cercare di arrivare ad una dieta senza zucchero. Ancora Valerio ci riprova. Valerio, è proprio questo... lo zoccolo duro degli amanti dello zucchero. Anche questo è un bel capitolo, Valerio, quello di Valerio. Eccolo. Sì, eccomi. Innanzitutto complimenti per la trasmissione a voi e complimenti al dottor Berrino per la chiarezza espositiva. Grazie. Volevo domandarvi relativamente allo zucchero ancora, questa maledizione del ventunesimo secolo. Io ultimamente mi sto avvicinando alla stevia anche perché mi piace molto come gusto e volevo sentire un parere appunto del dottore. Poi una domanda velocissima, per favore, una ricetta rapida per mia sorella che è celiaca. Lo so che ci sono i prodotti specifici, ma leggendo le spiegazioni degli ingredienti, sono pieni di grassi, di palma, palmito, e vorrei farle una sorpresa, magari preparandole un dolce. Ma che carino, Valerio, ma che fratello, un fratello maggiore, fratello maggiore. Maggiore, sì. Proprio carino. Allora, dottor Berrino. Ecco, due parole sulla stevia, questa fogliolina dolce, è 200 volte più dolce dello zucchero. Siamo prudenti, tuttavia, non ci sono degli studi sugli effetti metabolici della stevia, almeno io non ne conosco, ma ci sono gli studi sull'aspartame. L'aspartame è 170 volte più dolce dello zucchero. Noi abbiamo visto nei nostri grandi studi che chi beve le bevande zero, che sono dolcificate con l'aspartame, si ammala di più di diabete. E come fa ammalarsi di diabete se non c'è zucchero dentro? In realtà, quando noi sentiamo il gusto dolce, non soltanto in bocca, sulla lingua, ma anche lungo tutto il tubo digerente, quando arriva qualche cosa di così enormemente dolce nell'intestino, l'intestino spalanca le porte per assorbire lo zucchero. Quindi se lei vuole farsi un caffè dolcificato con la stevia, lo faccia pure se vuole, ma se lei mangia anche un biscotto assieme, tenga presente che la glicemia si alzerà di più che se avesse dolcificato il caffè con lo zucchero. Per cui andiamoci piano con intensità di dolce. Possiamo anche usare la stevia, ma in quantità talmente piccole da non fare le cose troppo dolci. Per quanto riguarda invece il suggerimento... Potrebbe essere. Sì. Dottor Berrino, invece per il dolce della sorella del nostro... Faccia questa torta per la sua sorella. Quindi le abbiamo strappato un'altra ricetta? Sì. No, recuperiamo la ricetta di prima, quella con la batata e con le mandorle. La purea di batata mescolata alle mandorle. Lei ha questa pasta in mano, no? La dispone nella sua teglia antiaderente, e poi fa un piccolo bordino attorno, si modella molto bene, e poi dentro fa cuocere le mele con un pochettino di cannella, con due uvette sultanina, e ci mette anche un addensante. La cosa migliore è mettere un cucchiaino di kudzu, no? Un kudzu lo si scioglie prima in acqua fredda. Si trova nei negozi di macrobiotica? Si trova nei negozi di elementi biologici, sì. Si trova il kudzu. E oppure può usare un po' di agar agar. Sì. E in modo da rendere questa composta di mele un pochettino più dura. E lei così mette le sue mele cotte sulla sua torta. Qui ancora è la stagione del melograno, quindi lei prende un melograno, prende tutti i chicchi di melograno e li cosparge sopra la sua torta, sopra le mele. È una torta meravigliosa che non ha nessun problema per una persona celiaca e che vi consiglio di fare. Dottor Berrino, allora siamo quasi in... No, abbiamo ancora tempo per invitare i nostri ascoltatori a chiamare per le ultime domande e anche per aprire il grande capitolo della carne, insomma quella tra carne rossa e tumori è una delle conoscenze epidemiologiche più consolidate, no? Ma non solo coi tumori, ecco. È carne rossa e infarto, carne rossa e Alzheimer sta venendo fuori molto chiaramente. Sono le grandi malattie, i tumori, l'infarto e le malattie neurodegenerative, sono quelle che dobbiamo cercare di evitare per fare un favore ai nostri figli. Ma per chi non volesse, per ragioni diverse, rinunciare alla carne rossa? Ci sono delle avvertenze, dei consigli, una dose che insomma massima da consumare nella settimana, degli abbinamenti, dottor Berrino? Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro raccomanda di non mangiarne più di due volte alla settimana e raccomanda di non mangiare i salumi, ma la carne rossa se non la vuoi mangiare che la mangi. Il mio consiglio personale è che siccome la carne rossa è così negativa in quanto contiene molto ferro, il ferro della carne è molto ossidante, favorisce la formazione di sostanze cancerogene, determina infiammazione a livello cerebrale. Quando mangiamo la nostra bistecca, nello stesso pasto mangiamo anche tantissime verdure, perché le verdure contengono sostanze antiossidanti e quindi riducono questo effetto negativo del ferro della carne. E magari prendiamo anche il caffè dopo pranzo, che anche lui è molto antiossidante. Dottor Berrino, allora ritorniamo a me. Quanti grazie, me ci grazie. Sono? È un progetto in corso già da un po', vogliamo reclutare 2000 persone che abbiano la sindrome metabolica, cioè che abbiano un po' di pancetta, la pressione alta, il colesterolo e i trigliceridi sballati e così via. Persone, quindi uomini e donne, dottor Berrino? Uomini e donne, sì signore. E comunque se c'è soltanto il marito che ha la sindrome metabolica, invitiamo anche la moglie naturalmente a partecipare allo studio, perché facciamo i corsi di cucina e quindi vogliamo che ci sia anche chi cucina in casa e viceversa, c'è la moglie, invitiamo anche il marito. E per avere informazioni c'è un numero di telefono anche, che è l'Istituto dei Tumori di Milano. Che noi mettiamo naturalmente, metteremo il link sulla nostra pagina, certo, comunque l'Istituto dei Tumori di Milano. Quanto tempo ruba, tra virgolette? Un giorno al mese. Un giorno al mese. Una mezza giornata al mese. Ci vanno molto bene le persone anziane, le persone pensionate che hanno anche più tempo. Il numero di telefono è 02 23 90 28 68. Quindi bisogna essere solamente un po' in carne, dottor Berrino, per partecipare a questo pancia, studio, sì, meglio se c'è la pancia. Vedi, e ogni tanto aiutarvi a mandarla giù, insomma. Dottor Berrino, vede che ogni tanto avere la pancia aiuta. Serve. Perché, cavietta degli perché le persone con la pancia possono partecipare a questo progetto e quindi dare una svolta un po'. Ma se ingrasso un po' mi prendete? Eh no signora, meglio che non ingrassi. Dottor Berrino, noi la ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi, naturalmente posteremo le ricette, posteremo il link per partecipare a questo progetto che sta ancora ruolando uomini e donne sopra i 55 anni, vero dottor Berrino? Sopra i 55 anni. Un po' morbidi diciamo così, con la glicemia un po' borderline, un po' i livelli di pressione alta, per dare un po' una svolta, per raggiungere qualità di vita ai nostri anni. Dottor Berrino, io devo salutarla, speriamo di averla presto qui in studio per un'altra puntata. Arrivederci. Grazie, grazie dottor Berrino. E noi ritorniamo domani invece. Noi domani con una nuova puntata, certo. Tanti temi, scriveteci se avete bisogno di noi. Qualche ideuzza, come no. Grazie, buona giornata.